Ehi, come sto uscendo di orario? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puffo. Puffa, ma vola? Sì, sì, è chiara, ma è puffa. Ma quanto è già chiara? La vabbè, allora? Le parole sono ben scandite, si capiscono bene, però l'aria può, è tipo come stai parlando dentro un bicchiere. Sì, vabbè, meglio di come ci va prima questo microfono è felice, adesso ho messo con il fattore e sembra che va di mezzo, c'è meno potenza l'ingresso, io lascio così, lo lascio là, già va bene. A te Caprino ti piace, Alicia? C'era anche Falchetto che si nel canale, giusto? Speriamo che entri capi due, così ci andiamo a Coso, a Muro, anche perché ho messo la tappa in macchina di mia sorella perché non so dove abiti. Ho detto senta Baracchino, ho detto poi attacco in macchina e ci scendiamo. Invece non ti ho sentito per niente tutto il giorno. Vabbè, un'altra volta scendo. Già non c'è problema, già c'è attacco in macchina, adesso la per mettere in macchina, lì invece mettiamo la magnetica e scendiamo da te. Già sono entrato lì anche da Maramobile il giorno, però diciamo che magari se c'ero io non ci ritrovi, come volta c'era un interruttore dell'alimentatore, ne avevo trovato uno che era preciso, molto bene, interrompeva, lo viene subito, ma io vedo anche la mattina. Yeah. darsi una spuzzurata. Ok, poi tu prima un scippo, guarda, adesso conosco neanche io come sta, cosa mi sta succedendo già, è proprio un scivo, è proprio nulla, è un orso, sta diventando, hai capito, quello che lo posso dire, mi ha parato, però, ho capito, sono un po' giù. Lo so. Magari uno anche perché si vede ingrossare e cosa si lascia andare. No, ma non è. Beh, mangiato un bel queste feste. Ho mangiato regolato, già, mangiato regolato, diciamo che non mi sento come mi sentivo gli altri anni appesantito, per niente. La roba dolce, guarda, panettone, dal giorno che ho mangiato quello con le limoncello, con la crema dello. Non ne ho più assaggiato, roba dolce. Thank you. tempo compreso. Tu venisi con noi e non ti preoccupi se due. Ma non è quello, scusa, hai capito? Se io vengo, non c'è una cosa. Sì, già tempo compreso, non ne capitamo, si mette in casa. Abito montagna qua. Sei troppo staccato dalla città, capito? Unisciti. Sì, Gianni è a Muros, stamattina ha portato uno di Colongiano, quindi è a vicini adesso, Gianni. Ah, uno di Colongiano ci aveva messo il baracchino. Ehi, un camionetto di Colongiano, sono arrivato che pensa, che lo sente qua. Cava, vabbè. Già va bene, bisogna ampliare tutta la frequenza. È un camionista nuovo è entrato, da Colongiano stamattina, in realtà io stavo facendo la prova di un baracchino che aveva appena ritirato. E quindi c'è anche quello adesso. Andiamo uno vicino là. Chi è questo? Non un attimo, non me lo ricordo adesso. Non c'è problema, dai, c'è reali amici. Quando vuoi, come vuoi, vieni a trovarmi, canto di Biasi. Ecco, adesso vediamo da dove sei. Registra. Sì, a Colongiano io ho lavorato con una ditta, c'erano anche dei camionisti che erano di Colongiano, non so se siamo quelli. Ma c'è stato un break, avanti Massimiliano con la buonasera. No, è Gigi Vulcano, buonasera a tutta la ruota, è la Gigi Vulcano. E poche battute ho sentito solo un break, sembra che Massimiliano. Ciao Gigi, compra anche a te, buonasera, buon anno perché lo siamo sentiti, anche gli auguri te li ho mandati, non so se li hai ricevuti. Ricevuto gli open affari, non so se te l'ho detto, mi sembra, o no? No, aspetta, Massimiliano l'ho detto che è a qualche un altro, ho ricevuto anche quelle di Giulio, Giulio Dollaro, mi sono arrivati anche quelle di Giulio Dollaro. Magari. Vabbè, interessante che li abbia ricevuti. Sì, proprio di sì. Oh, Alessio, sta facendo bene quello del Codrongiano? Come usciva ultimamente o com'era? Bene, segnale 7 arrivava qua. Benissimo arrivava. È positivo, una la 48 il BX, quel modello nuovo, l'ho mandato da Albino, gli ho detto di andare da Albino che glielo faceva lui, canali sopra e sotto, e è riuscito a portarlo a esattamente a 22 watt quell'apparato lì, 22 watt è riuscito a farlo salire. Esce bene comunque, l'ho sentito stamattina. Esce benissimo. Prego. Avanti. Adesso le trappola. Qui in compagnia di Gigi, di Alessio, di Capri 2 e io, dai, avanti. Campa, salutoni Gigi, salutoni a tutta la ruota, ci siamo sentiti, dai. Salutoni anche Alessio. Avanti. Falchetto, anche a Capri 2 che non so se mi ascolta l'ottava lui. Mi ascolti tu. Positivo, io ti ascolto, dai, con pochi vatti ma già ti ascolto, sto uscendo. Sono i fratelli Garau, capito? Fratelli Garau di Codrongiano, ma ormai hanno venduto tutto e non lo fanno più l'autista, capito? Ci sono. Hanno chiuso l'attività, capito? Erano due fratelli Garau. Oh, sono anziani, sono. Uno è Martino e l'altro è Marore. Ci avrà rimodulato forse positivo accento. No, no, io stavo preparandomi una tazzina di rosso, perché se no mi si asciuga la lingua, capri tu. Sì, no, io ogni tanto mi stappo lo spumantino, mi stappo. Riprendi a poi. Prendi i guanni, riprendi. Ia. Pagavo tutti bevendo qua, poi non lo so. Tutti con la biuzia siete. Io vabbè che ci ho visto del fumo, mamma mia. Che io negativo, già qualche sigaro mi accendo ogni tanto. Niente, non ne ho acceso neanche uno in questi giorni. Se non lo so fumare, già sono ogni tanto qualche sigaro. Me lo fumo e niente. Poi diciamo già fuori all'interno di questi spumanti, gli ultimi sembrano tutti cattivi. A me non è che piace molto lo spumante, deve essere un po' dolce per piacermi, se no quello secco non mi piace. Io bevo per oggi, infatti, stavo bevendo altri ganci, alle stesse, poi i martini grandi, quindi ce ne sono ancora, perché non li voglio conservare, io so mia moglie, che si guastano, li prendi, Gigi. Positivo, no, io ne ho parecchio in frigo, ne abbiamo venduto pochissimo noi di spumanti, addirittura ho aperto una bottiglia, questa è, mi qua ce l'ho davanti, ed è a metà ed è, la devo buttare via, perché non l'abbiamo bevuta neanche. Un grande Zer, Conti Bernardi, sai che cos'è, forse era qualche regalo in mezzo a qualche confezione che è arrivata. E tu, dico la verità, quest'anno non ne ho comprato neanche una bottiglia, perché me ne hanno regalato parecchio, c'ho il frigo pieno di spumanti di ogni genere, però non abbiamo bevuto, dai, beviamo più un bicchiere di vino, abbiamo aperto questa una bottiglia per brindare, però l'abbiamo bevuto un goccio, non bevuto tanto, capito, di spumante, tanto di fare il brindisi e basta, poi abbiamo bevuto tutta altra roba. Ciò che anche io vino, sì, hai capito, però di spumante, ero andato a fare spesa, ci sono stato già attaccato a questa, a comprare questi martini, e ne ho comprato un bel po', anche in cui mi hanno regalato, e mi ha dato in omaggio, sì, quei tappi che si mettono quando nasci nella bottiglia, e lo prendi, però gli ho detto, guardi che non servono, perché non ce ne rimane molto, se lo beve mezzo bicchiere, io niente, proprio nulla, sono astemi al massimo. Io sono un fermentino buono, sta per finire, e già con mio figlio già li abbiamo assaggiato, tanto non siamo usciti, non ho preso né macchine né niente, quindi ero in casa, e nulla, e riprendi il palchetto e fai girare. Capa che positivo, ogni tanto la ci vuole, ogni tanto già fa bene per il bicchierino, avanti a Tullio si arriva, a Pompone si è ripreso, dai. Arriva pronto. Chi è? Terra Nera. Oh, buonasera, in compagnia di Gianni, Doppio Ru, di Vulcano, di Capri 2 e Antonello Pomponio, avanti per i saluti. Modulando la stazione Pompunio? Sì, con poca lietta. Ah, bene, dai. Ok, Gianni, per i saluti a Pomponietta, dai. Buonasera. Ex Coca-Cola, ex Perla Nera. Ciao Giovanni, un bacione, avanti. Come state? Comunque auguri, eh? Auguri anche a te. Non ti avevo riconosciuto. auguri a te e famiglia, dai. Un bacio, bambino. Grazie. La voce. voce Antonella. Non ti offendere, però tua sorella ce l'ha molto migliore. Vabbè, già femminata, la sua no, la sua deve un pochino più affeminarsi per essere carina. No, ma non è quello, no, Giovanni, è che in realtà la sua invece la tua, essendo squillante, rimane più chiara, capito? Ah, sei buona allora, sono contenta, grazie. Ciao Gianni, buonasera, comunque la sorella di Alessio. Io ero convinto che era lui facendo la voce da femmina, siccome qualche volta già lo fa qualche scherzo Alessio, ero convinto che era lui. Perché io Alessio? Mi sembrava una presa in giro. Poi ho sentito la voce di Giovanna che è bella squillante. No, è piacevole, bisogna dirlo. Avanti, Falchetto. Campano, salutone anche Giovanna, cerca di farlo stare tranquillo mia, il fratellino che mi sa che in questo periodo si è dato un po' la panozza, eh? No, era con me questo periodo qua, tra Natale e Capodanno. E ha fatto il bravo? Sì, abbastanza, anzi. No, scherzo, dai, ma va bene, riprendi già. Bobo, se prepara la base questo falchetto te ne mangi, Giova. E quel poveraccio che non stava facendo niente, eh? Avanti, Gigi. Ma poi è bravissimo Alessio, mangia da solo, non dice niente, è bravissimo Alessio, no? Non so, no, io lo conosco, non è che lo conosca molto, però è bravissimo, ho visto che beve da solo, mangia da solo, fa tutto da solo. No, da solo non lo fa tutto da solo, eh. No, perché? L'aiutate pure, perché? No, non io, la ragazza. Lo imbocca. Lo imbocco, no, Alessio si siede nella sedia, poi ci va la ragazza e lo imbocca. Cioè, io mangio la pappa, su. Adesso il servizio di Venizia qua, a casa sua, capito? Beh, ma non tutte le donne parlano così, ma ci sono quelle femministe che, tutti i bambini, no? Vabbè, io non ho capito niente. Ah? Con quelle femministe che non, cioè, che pensano proprio a loro stesse, cioè alle loro persone basta, non agli altri. Questo è vero, questo... veramente d'accordo, bisogna rispettarsi uno e l'altro, non è che dove non arriva uno deve arrivare l'altro. Sai che uomini e donne sono completamente uguali, cioè completamente, a parte i genitali, però siamo uguali, eh. Beh certo, K. Diciamo che molte donne si lamentano perché si separano, però sono di quelle che magari vogliono che il marito la rimpiatti, che faccia questo, che faccia l'altro, non lo fanno respirare in casa, il marito poi scappa per forza, perché poi uno non si deve sentire obbligato a fare le cose, deve farle spontaneamente e basta, secondo me io la vedo così, e poi ci deve essere, non dico, se due lavorano si devono anche aiutare, ci deve essere una reciprocità di aiuto. Quello sì, come pratica due persone che convivono insieme, la senti la cosa. Ma non cambia niente, due che convivono, due che sono sposati è la stessa cosa. Sempre assieme stanno, sempre assieme devono fare le cose e aiutarci l'uno con l'altro. Ma ci sono quelle donne che pretendono, devi fare questo prima di uscire, se non esci. Quelle sono stupidaggini. Ma infatti, avanti, chi è rimasto? K2 che si riserve di donne, aiuto, K2, parla. Buonasera, sono la sorella di Alessio, sempre. Io da quando sono sposato non ho fatto mai piatti, per esempio, tante volte i piatti, ho capito, l'ho fatto per terra, ho messo a fare la biancheria, il bucato, e ci sono dei momenti che a volte bisogna aiutare le mogli, se sono dei momenti che non stanno bene una cosa o l'altra, è giusto, se non vuoi. Io ho avuto dei problemi, mia moglie è stata male, è stata ricoverata, e avevo i bambini che erano piccoli, e cosa dovevo fare? Lasciare la casa tutta sporca? E purtroppo l'ho fatto, capito, e purtroppo capita il giorno che tua moglie può capitare che non ce la faccia, che un'influenza e stia male a letto 2 o 3 giorni, e cosa fai? E tu sei a casa, una cosa e l'altra, cucini tu, io cucino e la faccio. Una cosa che c'è da fare, se sta bene lei, non sta tranquillo, non tocco nulla, non faccio nulla io, però se non sta bene lei bisogna che gli dia una mano, purtroppo è così, capito, non so se sto sbagliando, ma è così. Benissimo, si sono tutti assentati, stavo aspettando uno all'altro. No, io ho Cafe 2, io cucino e mi piace, quando sono libero in casa, che sono libero, non c'è niente da fare, mi piace, mi dedico io, però fare i piatti poi se li fa lì, però la cucina mi piace molto, mi piace moltissimo e mi dedico parecchio, perché vedi se c'è un porcetto, una cosa, no, me lo cucino io, no, voglio fare una cosa, un pesce speciale, me lo faccio io, gamberoni, no, li cucino io, li faccio io, capito? A parte che mi piace farlo e lo faccio proprio, e quando le preparo lo so proprio con soddisfazione, capito, Cafe 2. E anche io, ma lì volentieri, per esempio, come se il porcetto, se non il frigo, me lo spiego, lo metto piano piano, c'è il camminetto, e così, e quelle cose lì, sì, anche la carota, ho fatto le anguille con lo spiego, tutte quante queste cose si possono dare una mano. Poi ma già si impara anche quello, al momento dei bisogni bisogna sempre fare anche quello, capito? Purtroppo siamo soggetti a tutto nella vita, capito? Riprendi. Fare quello, però al risultato non c'è niente qua, e allora si allontanata. Tante volte l'ho lavati, però è sempre diciamo in quei casi lì, dai, che stava male lì, se no ne sporco parecchi di tegami, di cose, a volte mi metto a cucinare io, a fare io, lo voglio fare io e ne sporco, però a lavare lava tutto lì, però a cucinare molto spesso quando sono a casa lo faccio io. È stata già che sto facendo qualcosa fuori, in campagna e via dicendo, ma se sono a casa così, giornate fredde così, no, allora mi metto a cucinare io, capito? Lo faccio volentieri, è una cosa che mi piace pure farlo, ecco, quello lo faccio, ma non è che, non è per neanche per aiutarlo, lo faccio perché faccio una cosa che piace a me, capito? Capito? Una piattanza che piace a me, capito? E lì a volte non mi fai, me la faccio io a modo mio, capito? Mia moglie cucina bene. Guarda, quando cucino io, diciamo, vuol dire che non c'è lui, però mia moglie è una brava cuoca, fa degli ottimi piatti che a me piacciono molto, però anche io già mi arrangio, non faccio una pasta, insomma, so fare tutto, hai capito? Mi hanno imparato bene, anche se vero, mi dovevo arrangiare all'epoca a cucinare. Positiva, ecco, così tagliamo un po' questo. Mica ci sono io in capelli di lavare. Volevo dire, ma tuo figlio che strumento suona lui? Sì, c'è anche Gianni rientrato, però pensavo già che la tua 50, per vedere se sta vincendo la finita, adesso ho detto per vedere se la vera fare qualche piatto, poi ha valutato, riprendi qua. Non più tardi di dopo pranzo, sì, ho lavato il piatto, sparecchiato, lavato tutto il tavolo, tutto qua. No, lo faccio per abitudine, non perché si è obbligato a cosa, sono abituato, oramai. Lo faccio proprio meccanicamente. Ok, no, adesso le feste noi, per esempio, avevamo comprato questi piatti rossi di plastica e quando cambia il vano buttavamo la roba che diciamo gli avanzi nei rispettivi colori, la roba del piatto partiva al fuoco, hai capito? Perché cucino, faccio cucinando, generalmente lavo il tegame, non lascio mai nulla sporco, niente, cucina, tutto quanto mi pulisco. Se cucino io deve essere messo tutto quello perfettino, prendo il sale, lo metto a posto, cosa che invece lei quando prende il sale lo lascia lì, poi lo mette a posto dopo naturalmente, però prende il sale lo lascia lì, prende quello lo lascia lì, sporca il tegame lo lascia lì, fa tutto dopo, però poi si trova tutto insieme da fare. Invece io sono diverso, faccio cucinando, uso quello che devo usare e poi metto a posto. Già andrà bene già, come da Natalino andrà bene mega. Poco fa ti stavo chiedendo, tuo figlio che strumento suona? Di solito suonano un po' tutto questi che fanno i musicisti e via dicendo, però il proprio suo strumento qual è? La fisarmonica, sì. Fisarmonica, ma non la suona la sarda allora? Come? Ma la sarda? Lui fa liscio, jazz e classico. Dopo la fisarmonica? Perché io ho i gemelli, che uno suona la tastiera e l'altro le chitarre, ha diverse chitarre, ne ha diverse, dai, hanno diverse strumentazioni, uno è più specializzato sulle chitarre e uno sulle tastiere, pianoforte e via dicendo. Che noi ce l'abbiamo, di strumenti di cose per suonare, anche per suonare anche in coso in piazza, di tutte queste amplificatori, come vuoi chiamare quelle casse enormi, hanno tutta l'attrezzatura per poter suonare, diciamo, perché poi loro erano un gruppo, avevano formato un gruppo ma anni fa, quando erano ragazzini, dai, avevano formato un gruppo e poi hanno detto chi si è sposato, che una cosa e che l'altra, e allora adesso suonano, si mettono insieme tutti e due fratelli e suonano sempre a casa così, dai, però non vanno più da nessuna parte a suonare. Ci sono andati alla corte loro. Ma quanti anni ha tuo figlio? 23 loro ne hanno 20. Allora ne hanno compiuto. Sono dell'83 sono loro. Dell'83 li hanno fatti a dicembre, il 23 dicembre gli anni ne hanno compiuti, altri ne hanno fatto 25, 26. Il fratello suona più bene perché ha fatto la scuola, però mio padre, essendo un alfabeto, strimpella così, non è che è a casa e non è che va a fare concerti, no? Ma sì, qualche accento, qualche, io diciamo che per lui sta facendo tanto, è molto difficile perché c'è la settimana di limite aumentata, io come sappiamo sono a tutti accento questi basi, ne ho elettroniche anche se però sono tutta roba professionale, ne ha tre pisalmoni che costano più di 10.000 euro, proprio parte in comandi lavorati a mano, proprio no, fuori dalla catena di montaggio. E dove abita tuo padre, Fabio? Tuo padre abita a Santa Maria di Pisa. Ok, ma chi sa pisalmoni che mi avrebbe fatto piacere conoscere, capito? Quando uno la suona la strimpella così, l'importante è che ci sia la passione, no, io non la sto piccolando, sono più di 10 anni, però lui ha fatto scuola, ha fatto un sacco di giri, ed è un professionista, riprendi già. Raga, eppure lo voglio sentire solare, e mi stavo per venire, l'altro giorno poi tu mi hai detto che non ci andavi, e allora non sono andato manco io. Ok, già, io ti ho detto, l'altra sera era qui, la musica è ancora giù qui, un attimo di solo, infatti, poi eravamo fuori scendere. L'altra sera a braccio la suonata l'ho fatta sentire in frequenza anche. Ma io non lo sentisco. Sì, ma non rende, dai, frequenza. È un'occasione già te lo faccio sentire, riprendi. È positivo, positivo. No, è già bello perché noi quando facciamo qualcosa qua loro suonano, e, però non diciamo suonano chitarre, la classe, diciamo la classica, dai, non quella elettrica, perché qua siamo e facciamo spuntinate così, no, suonano chitarre così, capito? Classiche e roba del genere. Sì, già sono bene anche le chitarre, ma lui adesso un pochettino era, diciamo, fuori, perché stava fino a finire le partite, e c'è l'esame in questo mese della ESE, aveva preso la patente del camion, il capo del taxi, la patente del Puma, adesso c'ha la ESE questo mese. Ah, la patente, ah, sta pigliando quella, la D, o che cosa sta pigliando, la E, hai detto, la E o la D? La già la patente B, già la patente C più GQC più KB, deve prendere la E che le ha tutte. Ma attenzione, ci vuole la D per, tu hai detto la C, la D per prendere, per il Puma ci vuole la D, capito? E ce l'ha la D, ce le ha tutte, tranne della E. La E deve dare questo mese l'esame, c'è allora, c'è la nella macchina a 18 anni, poi ha preso da poco quella del camion, più il CQC del camion, KB e la B ha preparato, adesso c'è l'esame della E. È Caparroggio, Caparroggio. Va bene, dai. Ma lui perché poi che lavoro vorrebbe fare per prendersi queste patenti? E lui senz'altro aspira o all'ATP o all'altre a entrare. Ah, ho capito, ho capito. Ho capito. Beh, dai, già va bene perché è un lavoro abbastanza pulito, eh. È un lavoro abbastanza pulito quello, perché poi viaggi turistico, gran turismo, quelli lì, non è che sia molto un consiglio. Io l'ho fatto tanti anni fa, ripeto, l'ho fatto tanti anni fa e non è... E non piace, a me non piace così quel lavoro lì. Io mi ho fatto la linea quest'estate, io ho tutte le partenze, io sono lì. Mi ho fatto la linea della Tintino, della regione, Magalino, Simanno, poi tutta la Lituania con Puma, quello perché io sono fatto a corso un ditacolpo mio con il scuola bus. Quest'estate, poi che mi dà la scuola, me ne sono entrato con mio amico di Portatore, con Maraghini. Conosco a Paraghini, dai, figli, figli c'è adesso. c'è il figlio, il padre è morto, il padre mi pare che è morto, vero? Però non si trovi più lui. Si trova, perché non si anche da poco, ci siamo visti con Angelo, noi abbiamo trovato la partita assieme, Angelo è che c'ha la vita, perché è l'altro fratello all'arte, poi c'è Orette che c'è il taxi, Angelo è che c'ha la vita. No. Il taxi è coso, si chiama, come si chiama quella, è sposato qui a Ottava, no, non si chiama Angelo, no, si chiama, come si chiama Baraglini, quello di nome, mannaggia, mi sfugge. Oreste, bravo Gianni, Oreste. C'è qualcuno che ha bussato, scusate, mi riposa, adesso vi facciamo girare come una giostra, ma che vecchi. È sposato con una che fa la cuoca, la conosco molto bene. Elisabetta, abita qua vicino all'Ottava, abita qua vicino a me, la madre, abita qua, Elisabetta si chiama, di luogo. Pagava, esatto, Elisabetta. Sì, la conosco molto bene perché ogni giorno ci troviamo, perché io riporto la roba all'asilo e ci fermiamo 5 minuti a parlare, così la conosco bene. Io sono con lui, come volete, prima eravamo molto amici, dai. Adesso un po' non c'è, diciamo, lavoro, quello e quell'altro, ma se no lo conosco prima di sposarsi con Elisabetta e poi no, ci guidiamo, ci salutiamo, ci tocchiamo la mano, dai, quando ci capita, però non è che ci frequentiamo molto, dai, diciamo, però ci conosciamo da molto, abita lì vicino via, ma come si chiama quella via? Via Mentano, quella via dal corso, a fianco alla farmacia, stare dritto. Sì, io ho capito. Adesso nella salita. Nella salita di Porotore, se lì abita. Era a casa, mi pare quel palazzo era proprio di lui, del padre di Baraghini. Il padre abitava al Camoncone. Sì, abita il padre, ma quelle palazzo dove abita Orese, mi sembra che erano di loro, del padre, quella palazzina lì. So, non te lo so dire quello, però. E via, ecco, era lì, via. Via Ponte Romano, non pare che sia. Sì, lì è già, dove c'è anche l'ufficio di Ali, lo so. Siamo andato, ci siamo visti col padre, perché sono andato lì in ufficio. Prendemi il padre, io sono da tanti anni che non lo vedo più non mi ricordo più neanche il nome. Ed è da tanti anni che, voglio dire, da molto che non lo vedo, ma era grandetto già, molto grandetto di età quell'uomo lì. Sì, io l'ho visto ma è un bel po' di mesi fa, perché io sono già un bel po' di mesi a casa. L'ho visto quando stavo lavorando, l'ultimo periodo che stavo lavorando, mi ha chiesto se di servizio, se conoscevo qualcuno che si fanno le rotte del pullman, che lui aveva un pullman che lo stava demolendo, lui doveva vedere le rotte che erano nuove. Non sai quanto le volevo di queste rotte, no? No, non lo so, però me ne aveva parlato, mi aveva chiesto se conoscevo qualcuno, perché ne aveva visto un furgone, ma tu se conosci qualcuno le sto dando, e non so poi se ne abbiamo venuto, questo non te lo so. Che a Farogia potevano interessare anche a noi, dai, tanto noi le mettiamo sotto nei rimorchi quelle gomme lì dei furgoni. Non lo so. Ma è già un po' di tempo, ripeto, io sono da agosto a casa, quindi sarà successo in luglio, in giugno. Positivo. E avanti, che ore sono? Ci avrei guardato lui, meno 20, dai, c'ho ancora una decina di minuti, riprendi, fa che? Kappa. Sì Gianna, già va bene vera, ciao Iulia. Ok, dai, riprendi Cappedò. Ok, stavo dicendo, allora io non posso fare, mi vuole guardare, la porta della via, sono 17 cose, però io adesso per mettermi lì in funzione, insomma è una parola, perché mio figlio non stavo parlando, però cosa fa il trasporto di bus di bambini, così mi pare di aver capito. No, la bus. Come la bus stai facendo adesso? No, io non ho entrato a Sant'Angelo per il periodo estivo perché mi stava assimilando, mi hanno andare a lavorare lì quando si riguarda la scuola perché faceva la stagione a Tintino, però ma se avessi lavorato lì già un paio di autisti ci aveva che fregava un'altra e lui ce l'ha permesso con il pullman parcheggiato a prenderlo e a portare gente in discoteca. Il pullman che aveva l'itinerario segnato della regione, mi sono incazzato di brutto il giorno, quindi. È positivo, sarà già da parecchio, una decina d'anni fa me l'aveva chiesto Orette, me l'aveva chiesto a me se ero libero qualche sabato e domenica, ma poi io lavoro tutta la settimana, devo viaggiare tutto il resto della settimana e detto, se capita, ho detto qualche gita, ho detto posso anche fartela, ma e poi invece non avevo fatto neanche una di la verità a loro, proprio a loro non avevo fatto neanche una a Paraghini. Me l'aveva chiesto, Orette me l'aveva chiesto a me. E niente, però era qualche sabato dai che aveva bisogno, qualche urgenza te lo facevo e non gliel'ho mai fatto della verità, non è capitata mai l'occasione, no, e ormai non ne faccio più pure. Io da luglio a agosto, penso per quei due mesi, lavoravo ogni giorno, anche preso qualche giornata di riposo, ma raro, nel mese di luglio ho fatto tutta la tirata, hai capito? E niente, lo fa ogni anno, poi c'è lì c'è l'allenamento, io c'è la linea nuova che faceva il bagaglino, il trimanno, poi andava alla Littorale, hai capito? Perché con il tram non ce la faceva, perché avevo sempre belli piedi, e l'ho fatto, però con Angelo sono come un fratello, però ho detto, questi due autisti non mi vanno bene, perché uno ha preso il pullman e con l'itinerario segnato nella regione, fregavano un'altra gente, ho detto, tu, ho detto, se lavorato qui, beh, io sono a posto, perché andavo pure a ripulire, come fai tu a toccare l'acqua dal pullman quando io faccio i muri, che mi segno quanto ho fatto, io devo andare a ripulire, lui mi controlla i punti, è positivo, positivo. Beh, quello ci sono sempre. Quelli della Rapata che succhiano la Rapata ci sono da tutte le parti e quello è sempre esistito. Ma non va bene, non va bene perché nulla, poi io sto pulendo, ma c'è anche gli altri, tutti hanno messo, che io ero sceso a tentare legge, a fare loro sono. Io ho messo subito i pontini sulla I e non mi do, diciamo, non mi interessa questa cosa, mi spada, non mi interessa. Yeah. di cui c'è una discoteca che c'era lì vicino, non andava bene. Io, siccome ho studiato per pigliarmi l'attestato di capacità professionale, ho fatto 6 mesi di corso a Cagliari e scendevo 2 volte alla settimana a fare la scuola per 6 mesi, e mi hanno imparato come si lavora, e quindi mi potevo anche permettere di alzare la voce, a dire l'arco degli altri che non si tocca, riprendi lì. Positivo, positivo, lo so, lo so. Ma purtroppo queste persone ci sono, a me mi è capitato da poco, come avevo un collega, siamo fermati lì, vicino a Borore, tra Basanta e Borore, per tirare le corde, fa uno dietro l'altro, a fare anche detto, ma fermati in questa piattola che è grande, che controlliamo le corde sono tirate bene, ci fermiamo e lui si avvicina, ci spuglia a pisciare, diciamo pisciare, e mi chiama e dice lui vieni a vedere cosa c'è qua. Oh, c'erano sì puzzi da 25 litri di bidone a 25 litri pieni di gasolio nascosti dietro il cespuglio nella piazzola, capito? E aveva caricato qualche cisterna, qualcosa prima. Pero a mí me ha conosciamo una vita con Tore, lui c'era il baracchino, Tore, conosco una vita, Gian Mario il figlio, vabbè, è arrivato dopo il figlio. Non so, che macchina avevi lì quando eri lì, che macchina c'avevi? Positivo, positivo. E allora già mai visto lì dentro, mai incrociato in coso, dai. Che poi molte di quelle motrici passavano, ma motrice grande o motrice piccola già avevi? Come si chiama? La motrice grande, il uovo era una motrice grande, ne aveva due di quelli. Uno lo guidava la stessa Spano e l'altro è due uovo, di come si chiama? Non so se te ne ricordi quei uovo. Positivo che mi ricordo, uno poi non so dove è lì che ne hanno tracciato la cinta, non so che cosa sia successo ed è buttato lì. No, la macchina si è scesa giù, c'è entrata dentro il capannone, partita da su da poco, il Renault è sceso giù dentro l'altro stabilimento che c'è di fronte dopo le sbarre, si è partito da su. Da poco è questo? Da un po' di tempo è questo, quest'estate è successo, è partito, gli ha buttato giù le sbarre, per fortuna ha buttato là la casetta dove c'era la guardia, è passata lì tra una sbarra e l'altra, ne ha sfondato il muro dall'altra parte e si è fermata giù dall'altra parte, era dentro dove c'è quel capannone. Facevo, caricavo lì, caricavo io, però è prima del 2004 che lo facevo, ho lavorato parecchio, che caricavo e facevo i due biglietti di Orosì, facevo quei due di Orosì, facevo quei due di Santa Teresa, che c'è Santa Teresa, anzi tre mi pare che venire a Santa Teresa, non due, tre ce ne sono, no, e tre ce ne sono, giusto, tre, Santa Teresa ce ne sono tre, e quello di Pula facevo, di San Rocco, capito, quei clienti li facevo io. Sì, no, ma senz'altro mi conosci, se vai a caricare sotto muro, no, mi avrai visto lo scuola Muscolo 55, quello che c'ha il paese disegnato sopra. Oh, dai, io vado molto, lì ci vado molto. Capito, ci vado parecchio a scaricare dove c'è il coso del ferro o dalla parte opposta, no, ma ci vado spesso. Però adesso sono quasi le 5, fra un po' apre il supermercato qua e non posso più modulare se no entro nelle casse della radio loro, capito, capito, entro nelle casse della radio di loro. Ok, hai capito. Comunque io volevo anche, mio figlio voleva sempre fare vita contro un po' di crisi c'è perché se sono parecchi autisti, io a me mi mancano 4 anni per andarmene in pensione, per arrivare a 40 anni ai contributi, io ho una vita che sto facendo il suo lavoro, mi mancano 4 anni per arrivare a 40 anni ai contributi, capito? Io ho avuto dei problemi, il primo periodo non ci faceva mai scrivere la camera di commercio per fare quel lavoro con le scuola, non sono andati in pensione un sacco lì, però adesso sono tutto in regola. Prima ho lavorato 10 anni in impresa, adesso, però me li posso volontariamente, mi riverso adesso. Positivo, dove sto lavorando? Io sto lavorando con l'Oltremare Trasporti, sono già 27 anni in questa ditta qua, con l'Oltremare Trasporti, sono già 27 anni io. Ok, già, quindi, ormai già arriverai fino alla pensione, no, ma già mi ringrazio io, già mi ringrazio perché... Yeah. Ah, io qua bisogna che facciamo riprendere a Falchetto se c'è ancora, perché io devo abbassare il vate, se abbasso il vate non mi ascolti più, capi due, io mi devo salutare perché qua mi apre il negozio e niente, se no entro chiaro chiamo dai cazze loro, capito, dove fare una pubblicità o come si chiama, capito? Ah, ci sono io. Fai pure. Allora ci sentiamo, mi ha fatto piacere sentirti, niente, quando mi sento, ti chiamo o mi chiami. Ti amo buon venerdì, buon tutto. Io voglio già Gianni se c'è, se no anche io mi alzo dalla poltrona. Gianni ci sei? Non ti faccio alzare dalla poltrona, stai seduto con l'acqua. Speriamoci. lo teniamo così a zero, ecco, a zero di ecco, dovrebbe essere così, non lo so, se sente qualcosa. È una bomba, così va bene, va bene. La radio è chiara, non c'è ecco, però la radio è forte. Forte come il nostro microfono, più bassa? No, no, forte, è bella forte, non è più bassa, è bella forte. Ma c'era, come si chiama? Ma c'è anche Capri2, vai, che vediamo un po'. Capri2, detto di assoluta aggiunta e poi facciamo. Da me come che lo ascolti molto, diciamo, Santiago di due e poi sparisce ogni tanto, comunque se mi sta ascoltando la prima sera si la capri due da loro l'operatore Gianni che lo super saluta e lo le rimette anche il cambio e poi vedo se riesco a ricevere, avanti, mi sembra che ha detto Giuseppe, avanti Giuseppe. E questo Giuseppe l'ho capito. Ah, quello di camionista, ho capito. E la tua che mi hai lanciato, chi è l'altro? L'altro è Giulio Lollaro. Ah, Giulio, Giulio, ciao, ti ho sentito tua mamma, ci avete ascoltando. Non è cattivo, io Giulio, stamattina poco fa l'ho ascoltato bene, per prima di entrare in tua origine. Non lo so, Giulio, mi ascolti? Ti sento bassissimo, Gianni, ciao Gianni, buon anno, non so se mi stai ascoltando. Io ti sento molto, molto basso, non ti ho mai sentito così basso, eh. Oggi appunto faccio fatica ad ascoltarti. Ok, ti ascolto giù, anche io bassino, sì, Santiago di due, la radio non riesco a percepire, dimmi già se in barra mobile. No, sono a casa, aspetta che cambio, palazzo e così vediamo un po', dai. Aspetta un attimino che cambio palazzo. C'è anche Giuseppe, Giuseppe. Yeah, sempre più basso, sì. L'antenale secondo me non ha la massa. Deve fare una massa buona. E dov'è quel Giuseppe? Sacro Cuore. Dov'è? A Sacro Cuore. Io non lo so, sono nel piazzale della Sisa, ma non lo sento. Boh, non lo so. Lui ha detto a Sacro Cuore, io a Sacro Cuore ti dico, infatti mi sembra basso anche a me. Io sono il dottore della Cisa, non lo so. Fabu, ciao Pierpa, mi sentite? Buonasera a tutti. Ciao Pierpaolo, buonasera, ti ascolti qui a Capri 2, ti auguro all'inizio di anno, ti rimetto il cambio Pierpa, mi ascolti? Ciao, fa che ti ascolto, auguri, buon anno anche a te, mi hai sentito, non so se mi ascolti da qua, eh. Okay. Adesso mi ascolti Gianni Capri 2, penso di sì, comunque. Ciao Pierpaolo, buon anno, Giulio da questa parte, avanti. Ti ascolto giù adesso, comprensibilissimo, aumentato di qualche Santiago e riesco, diciamo, a percepire perfettamente ciò che dici. Di nuovo ti rinnovo gli auguri di buon anno. Ti ascolto a bomba, ti ascolto benissimo, ti ascoltavano molto, anche perché le cose, come si chiama, il mio smitter è sempre a ballo, è sempre fatto così, ma di radio ti sento fortissimo, salutoni di nuovo a te e ti ricambio gli auguri di buon anno, e auguri anche a Antonio se è lì con te, non lo so, probabilmente immagino che siete insieme, va bene, riprendi ancora Pierpa e fai girare, vai. Antonio è entrato un attimo alla Sisa, sta per uscire, se ci sente ancora con me, cerca di salutare lui, contro il cambiare gli auguri. Ok, riprendo ancora io, d'accordo. Allora Gianni, adesso riesci a sentire un po' meglio, io cambiato apparato, infatti anche in ricezione questo è il migliore, senz'altro. No, poc'anzi stavo usando il vecchio Intec 34S, adesso l'ho tirato fuori e ho messo il microfono Intec preamplificato, quello M300, che mi fa anche, tra l'altro ho scoperto che mi fa anche da palla ascolta, mi fa. E dunque l'ho voluto provare, capito Gianni? Tutto lì, niente di particolare comunque. Riprendi i cabli 2. Sì, ce l'ho anche io, ce l'ho visto che è 340S con le 300, non lo so usare in questo momento, però ce l'ho anche io, mi sembra che già ne viene fatto anche bene, riprendi già. Era un attimino, era. Sto facendo cose qua, prendete voi, sto all'ascolto, dai, capito, ci sentiamo più tardi magari, dai. Per il momento faccio ascolto e continuo a fare ciò che sto facendo, dai. Ok, fai conforto già, se non ci sentiamo, che quando è riprendiamo a mondiale. Ok, che ce l'ho anche io con l'apparato, con il mic amplificato, lo fate quando in macchina, non dispiace, non dispiace. D'accordo Gianni, sì, no, devo dirci, mi spiego bene, perché ho messo questo microfono, no, e poi ho inserito le cuffie, mi sono messo le cuffie e ho scoperto come fa anche da palla ascolta, non mi ero mai reso conto che inserendo le cuffie in quell'apparato lì mi facesse anche da palla ascolta, va bene, adesso sono una cosa in più, avanti Pierpa. D'accordo, siamo qua, stai uscendo a bomba di radio, ti sentiamo qua, insomma la radio è a bomba, non so cosa stai usando, va bene, ci sentiamo fra un po', dai, avanti, riprendi Gianni. Ok, ok Giulio, comunque questo va bene, adesso quale stai usando di apparecchio? Adesso lo sto usando, il Galaxy 2 sto usando, con la terra più 3 da tavolo, e questo come fatti ne dà di più, l'Intec che mi dà mi sembra 2 watt, un qualcosa del genere, è proprio basso, ed era uno degli apparecchi più che ho da tanto tempo, ce l'avrò almeno 20 anni, forse anche di più, pensa che l'avevo messo anche in concessione questo, quando mi ero trasferito di casa per non fare il trasferimento della concessione, però l'ho fatto, l'ho preso e l'ho rifatta con il nuovo indirizzo di casa, no? Questo 6-7 anni fa quando mi sono trasferito in questa casa. E allora per l'occasione avevo messo appunto questo in concessione, visto considerato che ho omologato questo Intec 340 e poi ho anche l'altro, l'Alan 78 Plus, quello 400 canali, con un semplice ponte e diventano 400 canali, anche quello ho omologato, ho messo anche quello in concessione. Per un eventuale, per dire, non so, un usaggio che potrei fare, tipo uno a casa e uno in macchina, capito? Ma in macchina non ne ho da tantissimi anni ormai, e dunque tiro avanti così, capito? Non ho nessuna intenzione di metterlo in macchina, capito Gianni? Ok, ma tutti gli apparati precisi ai miei, anche io ce l'ho la 78, fatto a 400 canali, giusto? Tu sai, il top line, quindi come il mio, c'hai l'Intec 340 e l'Ala. Toccai 50-24, sì, poi ho il Tessar, Lafayette, poi ho il Polmar, il Cossat 25B, l'Elbex, poi l'altro qual era, non me lo ricordo nemmeno, e in tutto ne avrò 10-12 mi sembra solo in tutto, se ricordo bene, ma ce li ho tutti quanti scatolati dentro la scatola, l'ho messa da parte in mansarda, perché qui dove ho la stazione il posto è quello che è sul tavolino e ne ho solamente 1, 2, 3, 4 qui davanti adesso in questo tavolino e poi c'è naturalmente c'è il transmatch che fa da wattmetro e l'osmetro, poi c'è l'alimentatore switching, c'è lo stereo, c'è l'UHF, c'è il VHF e poi vari microfoni amplificati di qualsiasi genere, però uso quasi sempre il tanner più 3 da tavolo, almeno quasi tutti gli apparati, capito già? Ok, fatto anch'io, però poi l'avevo dato tanti anni fa, ci avevo messo anche il microfono autocostruito con tutta la carcassa in legno che avevo fatto, e poi tra l'altro ce l'ho di nuovo, uno di quelli che me lo sono costruito anche da poco, da qualche annetto. E poi cosa dirti? Come antenna ho la Stellar 16 radiali, però di radiali ne sono caduti già la metà, dunque fra qualche tempo lo dovrò cambiare, perché ormai sta andando a rotoli anche l'antenna, è un'antenna che avrò oltre 25 anni, forse anche 26 o 28, non lo so, ed è vecchissima, capito, Gianni? Dunque, vedi un po', si tira avanti, adesso è tempo buono, chiaramente sono contento a sostituirla, perché l'inverno, quest'inverno ha contribuito a buttarmi giù quasi uno dietro l'altro i radiali che mancano, e allora sono per forza costretto a sostituirmi, capito? Anche per migliorare l'antenna, cavo soprattutto, il cavo me l'avevano scorticato gli uccelloni, certi uccelli che si posano sull'antenna, tipo, tanto per fare un nome, ecco, uccide, però siccome può essere un piccione, ecco, così io mi sono reso conto che mi stavano beccando il cavo, e infatti in vari punti hanno dovuto flare sul tetto, perché sennò si ossidavano, e allora funziona come funziona, tu lo sai meglio di me, no? Io diciamo che l'ho rimontato da poco, l'antenna era capitato giù, che era andata a farsi benedire a Puglia di essere vecchia, però ne ho comprato una precisamente, avevo avuto sempre queste antenne qui, la sigma con centrale in alluminio, poi i quattro variali caricati, da quando lo stavo durando tutte le antenne mie erano sempre sigma, sigla centrale alluminio e quattro variali fibra di questo caricato. Sono andato sempre bene, il guaio succedeva quando pure la smontavi dal vento, che lo filo centrale andava sempre a farsi benedire, perché gli agenti atmosferici continuano proprio quello, però nel resto dei radiali c'è noi di quella roba lì. E quindi giù, hai capito? Dall'SBE un vecchio microfono di 40 anni fa, di circa 35-40 anni fa, il circuito avevo copiato, e siccome io sono sempre stato appassionato di elettronica, e ho sempre fatto applicazioni elettroniche, anche perché diciamo che ero quasi nel ramo quando io avevo iniziato a lavorare, oggi no, oggi ho una certa età, poi ho cambiato dopo tanti anni di quel mestiere, ho cambiato e faccio il falegname adesso già da 45 anni. E dunque, ripeto, siccome ho fatto 12 anni di elettricista che ho fatto, ed ero in un laboratorio, perché lavoravo in una ditta dove c'era il radiotecnico anche, e la sera quando rientravo dal cantiere mi sedevo di fianco a lui, mi sedevo e insomma ho preso alcune cose, mi sono appassionato all'elettronica, qualcosa ho letto anche nei libri, qualcosa come 50 anni di lettura, per darti un'idea. E a questo punto qua, ecco che mi ritrovo oggi con qualche nozione di elettronica, ma non più di tanto, però non ho la presunzione di saper fare più di tanto, però diciamo che molte costruzioni le ho fatte a livello amatoriale, tipo che so io ricevitori a onde corte, a onde lunghe anche, come dire, per dire, non so, piccoli trasmettitori a breve distanza, queste cose qua, insomma, facevo, smontavo, oggi purtroppo non ne sto facendo più, intanto perché ho perso un po' la pazienza, perché la mia età ormai non è più diventato verde, io ho 68 anni quasi, dunque ti puoi immaginare, poi non mi accompagna più la vista da vicino per le saldature, oggi le saldature sono molto compatte, dunque dovrei cambiare continuamente occhiali, magari rinforzarli sempre per poter saldare, allora lascio perdere, sì, di tanto in tanto qualcosina faccio, ma non più di tanto, capito già? Thank you. mi era capitata l'occasione di averlo col microfono, l'avevo copiato e poi avevo pensato di autocostruirlo e ci ero riuscito alla grande. Allora a quel tempo io sto parlando di una cosa che risale a 37 anni fa, 35, 37 anni fa, ne avrò fatto almeno una cinquantina, che poi ho distribuito ai vari amici civili e non so se qualcuno ce l'ha ancora, questo non lo so, ma io parlo di civili anziani, così diciamo degli anni 70 all'incirca, e allora non lo so, però diciamo che poi da poco, sarà un 3-4 anni fa, me lo sono ricostruito, perché ormai io non ce l'avevo più, ma poi me l'ha venuto in mente, ma va, esce che me lo voglio rifare, me lo sono rifatto, dai. Però devo dire che adesso, come ti ho detto, da vicino ci vedo male, anche se porto gli occhiali per leggere, per saldare, da lontano ci vedo benissimo, da vicino invece mi dà fastidio, ma del resto è come tutti, no? Arrivato a una certa età si incomincia a diminuire di vista da vicino, magari da lontano ci vede sempre bene, tanto è vero, da poco, quest'anno appena uscito, avevo rinnovato la patente e tutto è andato bene, tranquillo, senza nessun problema, capito già? Ci sentiamo eventualmente, ciao ciao.